Componimento secondo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Perché le nostre genti pace sotto le bianche ali raccolga, non fien da lacci sciolte dell'antico sopor l'Itale menti, sai patri esempi della prisca etade, questa terra fatal non si rivolga. O Italia, accorti stia, far ai passati onor, che d'altrettali oggi vedove son le tue contrade. Né v'è chi d'onorar ti si convegna, volgiti indietro e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali, e piangi e di te stessa ti disdegna, che senza sdegno omai la doglia è stolta. Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti, e ti punga una volta pensier degli avi nostri e de nepoti, d'aria e d'ingegno e di parlar diverso, per lo toscano suol cercando già l'ospite desioso dove giaccia colui per lo cui verso il meonio cantor non è più solo. Ed, oh vergogna, udia, che non che il cener freddo e l'ossa nude giaccian esuli ancora dopo il funereo dì sott'altro suolo, ma non sorgea dentro a tue mura un sasso Firenze a quello per la cui virtude tutto il mondo t'onora. O voi pietosi, onde sì tristo e basso obbrobrio laverà nostro paese. Bell'opra hai tolta e di ch'amor ti rende schiera prode e cortese, qualunque petto amor d'Italia accende. Amor d'Italia, o cari, amor di questa misera Visproni, ver cui pietade è morta in ogni petto mai, perciò che amari giorni dopo il seren dato nel cielo. Spirti v'aggiunga e vostra opra coroni misericordia, o figli, e duolo e sdegno di cotanto affanno, onde bagna costei le guance e il velo. Ma voi di quale ornar parola o canto si debbe a cui non pur cure o consigli, ma dell'ingegno e della man daranno i sensi e le virtudi eterno vanto, oprate e mostre nella dolce impresa. Quali a voi note invio, sì che nel core, sì che nell'alma accesa, nova favilla indurre abbian valore? Voi ispirerà l'altissimo subietto ed acri punte premeravvi al seno. Chi dirà l'onda e il turbo del furor vostro e dell'immenso affetto? Chi pingerà l'attonito sembiante? Chi degli occhi il baleno? Qual può voce mortal celeste cosa agguagliar figurando? Lunge sia, lunge, alma profana. Oh, quante lacrime al nobil sasso, Italia serba! Come cadrà, come dal tempo rosa fia vostra gloria, o quando? Voi, di chi il nostro mal si disacerba, sempre vivete, o care arti divine, conforto a nostra sventurata gente, fra l'Itale ruine, gli Itali pregi a celebrare intente. Ecco, voglioso anch'io, ad onorar nostra dolente madre, porto quel che mi lice, e mesco all'opra vostra il canto mio, sedendo u vostro ferro i marmi avviva. O dell'etrusco metro inclito padre, se di cosa terrena, se di costei che tanto alto lo casti, qualche novella ai vostri lidi arriva, io so ben che per te gioia non senti, che saldi men che cera e men carena verso la fama che di te lasciasti son bronzi e marmi, e dalle nostre menti, se mai cadesti ancor, sunqua cadrai, cresca, se crescer può, nostra sciaura, e in sempiterni guai pianga tua stirpe a tutto il mondo oscura. Ma non per te, per questa ti rallegri, povera patria tua, sun qual esempio degli avi e dei parenti pongane figli sonnacchiosi ed egri tanto valor che un tratto alzino il viso. Ahi, da che lungo scempio vedi afflitta costei che sì meschina te salutava allora che di novo salisti al paradiso. Oggi, ridotta sì che a quel che vedi, fu fortunata allor donna e reina. Tal miseria l'accora, qual tu forse mirando a te non credi. Taccio gli altri nemici e l'altre doglie, ma non la più recente e la più fera, per cui presso alle soglie vide la patria tua l'ultima sera. Beato te che il fato a viver non dannò fra tanto orrore, che non vedesti in braccio l'itala moglie a barbaro soldato, non predar, non guastar cittadi e colti, l'asta inimica e il peregrin furore, non degli itali ingegni tratte l'opre divine a miseranda, schiavitude oltre l'Alpe, e non de folti carri impedita la dolente via, non gli aspri cenni ed i superbi regni, non udisti gli oltraggi e la nefanda voce di libertà che ne schernia tra il suon delle catene e de flagelli. Chi non si duol? Che non soffrimmo? Intatto che lasciaron quei felli? Qual tempio, quale altare o qual misfatto? Perché venimmo a sì perversi tempi? Perché il nascer ne desti o perché prima non ne desti il morire, acerbo fato? Onde a stranieri ed empi nostra patria vedendo ancella e schiava e da mordace lima roder la sua virtù di nulla ita e di nullo conforto lo spietato dolor che la stracciava a mollirne fu dato in parte alcuna. Ahi, non il sangue nostro e non la vita avesti, o cara, e morto io non son per la tua cruda fortuna. Qui l'ira il cor, qui la pietade abbonda, pugnò, cadde gran parte anche di noi, ma per la moribonda Italia no, per li tiranni suoi. Padre, se non ti sdegni, mutato sei da quel che fosti in terra. Morian per le rutene squallide piagge, ahi d'altra morte degni, gli itali prodi, e lor fea l'aere e il cielo, e gli uomini e le belve, immensa guerra. Cadeano a squadre, semivestiti, maceri e cruenti, ed era letto agli egri corpi il gelo, allor quando traean l'ultime pene, membrando questa desiata madre, diceano, oh, non le nubi e non i venti, ma ne spegnesse il ferro e per tuo bene, o patria nostra. Ecco da te rimoti, quando più bella a noi l'età sorride, a tutto il mondo ignoti, moriam per quella gente che t'uccide. Di lor querela il boreal deserto, e consce fur le sibilanti selve. Così vennero al passo, e i negletti cadaveri all'aperto, su per quello di neve orrido mare, dilacerar le belve, e sarà il nome degli egregi e forti, pari mai sempre ed uno con quel de tardi e vili, anime care, benché infinita sia vostra sciagura, datevi pace, e questo vi conforti, che conforto nessuno avrete in questa o nell'età futura. In seno al vostro smisurato affanno, posate, o di costei veraci figli, al cui supremo danno il vostro solo è tal che s'assomigli. Di voi già non si lagna la patria vostra, ma di chi vi spinse a pugnar contra lei, sì ch'ella sempre amaramente piagna e il suo col vostro lacrimar confonda. Oh, di costei ch'ogni altra gloria vinse, pietà nascesse in core a tal de suoi ch'affaticata e lenta di sì buia vorago e sì profonda la ritraesse. Oh, glorioso spirto, dimmi, d'Italia tua morto è l'amore? Di, quella fiamma che t'accese è spenta? Di, né più mai rinverdirà quel mirto ch'alleggiò per gran tempo il nostro male? Nostre corone al suol fien tutte sparte, né sorgerà mai tale che ti rassembri in qualsivoglia parte. In eterno perimmo e il nostro scorno non ha verun confine. Io, mentre viva andrò, sclamando intorno, volgiti agli avi tuoi, guasto legnaggio. Mira queste ruine e le carte, le tele e i marmi e i templi. Pensa qual terra premi e se destarti non può la luce di cotanti esempli. Che stai? Levati e parti. Non si conviene a sì corrotta usanza questa d'animi eccelsi altrice e scola. Se di codardi è stanza, meglio l'è rimaner vedova e sola. Fine del componimento secondo.